Ui, cioè, la battuta è sempre quella lì, come quando da Pomponio sento l'ambulanza, detto Mimi preparati, adesso ti metto una camicia di forza, mi Antonè. Solo voi tre eravate. Non lo so, no. C'è qualcuno che sta parlando. Ho sentito qualcuno sotto di te, ciao Claudio, ma non ho capito chi è. Avanti, sotto di te però. Vabbè, se qualcuno vuole entrare, siamo qua. Avanti pure. Mi sto ascoltando, mi sto. Tutto un po' di modulazione, ma c'è parecchio. Ma forte stai scendo con quell'altro, meglio dell'altra. Qualcuno si lamentava la te dolce, dice che con questo no, non capiva niente. Questo mi piace di più, è più corposa, la modulazione è più forte, anche il segnale è più forte. Sei oltre il 920 con questa. Vabbè, no, quella là c'è 4 watt, è normale. Però le alterno un po', capito? Li uso un po'. Quella là è una radio normale, ma con questa qui ghiaccia già i pigni voti, già. Questa va bene, Antonio. Per quello te l'ho detto, sai, io scherzo, te l'ho detto, non ho bisogno. Esci un bel bene. La posizione che sei, l'antenna che hai, esci molto bene, perlomeno a me mi arrivi benissimo. Un ottimo segnale, radio, perfetto. Comunque di questa ce l'ho, quanto l'ho montata già, quasi un mese e mezzo, 2 mesi, perché quella là mi ha rotto, cioè, non mi posso lamentare cra, di questa antenna che ho montato, sono molto soddisfatto, la verità, la più vecchia è la più buona, perché è fatta in modo diverso anche. Fino adesso sono soddisfattissimo, una e uno di stazionaria, poi quando piove salgono un po' di più ma non succede niente. E cosa succede? No, non succede niente, no. Già, io sono manco già un po' di stazionaria, io la manco va, non mi ha creato problemi, mai per me. L'anno scorso l'ho scesa, perché l'anno scorso, quest'estate, ho cambiato postazione, dopo che abbiamo portato le direttive, l'ho abbassata, l'ho smontata, pulita, rimontata, messa la spirale nuova, tarata bene, mi sono portato il baracchino con l'alimentatore su in mansarda, e quindi l'ho tarata direttamente su, quando sono sceso giù, manco ci muovi ago, e ancora manco ci muove, è perfetta, anche se dopo tenta, sempre così le mani. Sì, anche la mia l'ho fatta come l'hai fatta tu, l'ho messa qua sul lucernaglio, l'ho messa, dentro in occhio, mi ricordi che stavo modulando anche, l'ho prima, l'ho tarata bene, l'ho, sono arrivata a 1 e 1, poi non toccarla più, l'ho messa su, 1 e 1 di stazionarie, per mi salgono solo un pochettino quando c'è umido, boh. Ma non ha mai avuto problemi. No, funziona benissimo, la grande, l'ho detto già l'altra volta, va molto molto bene, benissimo, non bene, benissimo, più che bene, capito? Kappa di Roma, sono un po' di la partita, ci guardiamo questa partita, ci accende la TV, ci c'è stato il comando, ecco qua, accese, vediamo un pochino, già dice qua, questa partita. Avanti io, ma, cavolo, adesso non mi viene. Marco deve chiamarmi. Non mi veniva, cavolo Marco. Scusa. Sì, ma non ho detto Marco, ho detto Marco, mi devi chiamare. Ah, ma cosa Marco? vabbè, un po' di autoironia. E comunque è stato un po' smuovo, cioè non c'è tanto. Qua era acceso, però stavo facendo tanto per cambiare roba al computer, così. Poi scaldando pizzette in cucina, mettendo mozzarella sulla base pronta, dai, per le pizzette. Capa, io ho fatto la cosa. Ho fatto la pasta al forno per domani. Poi mi ha avanzata della besciamella, ho detto ma. E c'avevo quei gigioni, quelli grandi, non quelli piccoli, no, grandi, freschi, c'avevo. Ma è stato un colpo di genio, sai cosa ho fatto? Mi ha mandato anche del sugo, l'ho condita, li ho conditi, li ho messi dentro una teglia, l'ho fatto tipo un pochettino, tipo abbastanza, gli ho messo la besciamella sopra me che mi è avanzata, cioè l'ungaggio, ho messo il formaggio, la besciamella che mi è avanzata, un paio di sottilette dentro. Poi a Bonaretta è uscito questa cosa. Per chi aveva buon gustaio è tutto buono. Poche cose non mangio. Per esempio la verdura cotta non mi ci va. Bietola e cicoria fatta tipo insalata. Però se me la fai con le uova tipo frittatona e la frittata di spinaci, allora la mangio. Per il resto già gradisco un po' tutto, dai. No, io già le mangio le bietole. Cavolo, non mi risposto. Cavolo, mi hai dato un'idea, adesso me le faccio. Appena di accetto li metto sopra, mamma mia! Sì, vediamo se Claudio è all'ascolto o si è allontanato. Che partita è Claudio? Forse è andato là. Adesso vediamo se c'è in TV stanotte, oppure qualche film, qualche DVD vecchio, qualche videocassetta addirittura. Non so nemmeno più se funziona il lettore, il videoregistratore a cassette. Sarà inchiodato, tanti mesi che non lo uso. Usalo perché anche il mio Samsung ho dovuto comprare il CD pulisintetica perché era inchiodato. Sì, ma sai cosa partono soprattutto? I pinch roller, come si chiamano? I gommini, quelli dove passa il nastro, oppure anche le cinghiette di trasmissione, si spaccano, capito? O peggio, addirittura certi pinch roller, quelli di gomma, no, quei tamburelli di gomma, diventano appiccicosi, è come se si decomponesse il tipo di gomma usata, e praticamente fa cingomma col nastro e si mangia il nastro. Infatti quando si pulisce dentro con i solventi appositi, quelli a fare in gomma è meglio non toccarli, perché a seconda di che solvente usi, io ho visto cose orribili, c'è pulendo roba con acqua raggia anche sulle plastiche e poi si è sciolto tutto me. Capa, già lo so già che si guardano quelli. Io non lo so, ci sarà, ma ci sarà il magazzino addirittura da mio padre, non forse mi ha messo in camera a pranzo, è che non ha più trattato di videoregistratore. E io ne avevo tre funzionanti, solo che come rimangono fermi si rovinano subito, l'elettronica non funziona più, la meccanica si incasina. E poi tecnologia ormai, va, c'è di meglio, vabbè. Cappa, fate volare. Quelle vecchie? No, stavo dando una cosa, Sara. Sì, ma è così, No, ma già da tanti anni prima non ne abbiamo più usato il videoregistratore. Marconi, scusa se non ti risposto subito, mi ha chiamato mia moglie, dai. Io vi lascio e passo dall'altra parte, se ci siete, a dopo, mi fa piacere, lascio tutto acceso qua, tanto mangio un boccone, poi sono in stanza che mi guardo la partita, ok, intanto sono già sintonizzato, ok, buonasera a tutti, a dopo, ciao. ho visto Parma Juve, cioè, no, Parma Juventus. È sempre a pagamento però, no? Sì, Juventus Parma, sì, sì. Porca miseria, capitalista qua. Va bene, dai, buona partita, buona cena, Claudio, ci sentiamo. No, io l'ho attaccato, è portata. Se non ce l'ho io, l'ho portata a sera, da Genova. Io ho fatto la ricetta già da, praticamente da quest'estate, la prima del Covid, Va bene, dai, ci sentiamo, tanto anch'io stacco, adesso mi improvviso qualcosa in TV, eccetera. Antonio, vuoi per i saluti? Salutone Claudio, ce la risentiamo dopo, più tardi, alle prossimine. Ehi, Antonio, dai, sì, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, ciao. Bene, Antonio, tu mangiato, hai cenato? Sì, te l'ho detto cosa ho fatto. Ci è avanzata un pochettino, siccome ho fatto la pasta al forno, ci è avanzata un pochettino di besciamella, il sugo ci è avanzato. Cosa ho fatto? C'avevo i digioni, quelli grandi, freschi. Allora mi è venuto un colpo di genio, per non buttarlo via, aggiovigliato, e gli ho fatti... li ho cucinati, li ho conditi, poi li ho messi nella teglia, gli ho messo un po' la besciamella in mezzo, il formaggio e un po' di sottilette, ha giunto in forno, buona redda era. Sì, poi ci si ingegna così a fare queste cose in cucina, anche con poco mi immagino roba buona. Anche spendendo poco non è necessario fare tutta roba pregiata. Cioè, noi ancora, con tanto che speravamo che si potesse andare da parenti, no? A costo di stare in tre, in quattro, E noi non abbiamo comprato niente, né agnello, né ravioli, nulla. Nulla abbiamo comprato. E poi la bella notizia che bisogna stare vari giorni tappati a casa, i giorni festivi. Che Natale schifoso, guarda. Anche qua di Anegra vicina, e tutti quanti le macchine che portano in capo, che c'è niente, ma quando mai, in giorno di festa devono fare un guaccia. Mica se che i parenti, cioè uno deve stare con i parenti, con i genitori, quello che è. Cioè che c'è niente, guaccia. D'altronde lui dice, se vogliamo debellare questa cosa, un po' di sacrifici che dobbiamo fare. Poi chissà se quando arriveranno questi vaccini, se sono efficaci, se bloccano solo un ceppo, che ne so. Non lo sapremo mai perché non sai cosa c'è dentro, capito? Non sai cosa c'è dentro, magari ti fanno acqua distillata. Sono fasulli pure mi e non te ne accorgerai mai. Ragazzi, muore il lupino in mezzo. Quello, ma magari sarebbe meglio il vino. Ah. Vino bianco, no? No, anche perché contengono un po' cose, residui, particelle infinitesimali metalliche, cioè tutta, come dire, scarti di lavorazione, no? Per la via della produzione industriale, no? Vabbè, pazienza. Prendiamoci quello che ci arriva. Beh, vuol dire che c'è questo mestra, no? Roba pratica, quando fa il vaccino. Adesso ci mettono nanosonde, tutta roba tipo... ti fanno il tracciamento col satellite. Ah, Antu? Sì, a me lo buono, metà ghicchia, me lo buono. Ehi, fa da radio faro, mi ha presente il faro? Il faro, quello vagamente fallico, uno allungato, quello per le navi, è quello, la chicchia fa da radio faro. Ma ti muore chissà roba, ti muore. Ma chissà che cos'è. Sì, me l'ha spiegato mia zia che lavorava al CNR. Ha parlato di Pike, non so, quel recettore che si collega al DNA o alle cellule, non mi ricordo. Me l'ha spiegato perché lei Vabbè, ha lavorato al CNR, quindi lei col sangue, laboratorio, microscopio elettronico, era il suo lavoro per tanti anni. Però non mi ricordo, me l'ha spiegato, non mi ricordo niente. Questa cosa che si somministra, cioè, ma sicuri siamo, non è che dopo che ti fate un vaccino devono in mabbada come se di macchina. E Anto, è come la storia dei vaccini che danno ai bambini, no, per tutte le pertosse, rosolia, insomma tutte le malattie esantematiche, no? E non solo. C'è la persona sensibile che magari reagisce al vaccino malamente e può avere anche delle menomazioni, come dire, tipo autismo, roba del genere, capito? Tipo sciabidare malamente il vaccino. E così potrebbe fare in casi isolati, naturalmente, anche negli adulti. E loro dicono, vabbè, comunque la percentuale di rischio è accettabile, capito? Su tutta la popolazione. Solo che se poi sei tu a beccarti, cioè a quello a star male, è brutto. Accettabile sarà per loro che lo producono. Eh? E vabbè, comunque questa cosa bisogna debellarla in qualche modo, Anto. Se no stiamo tutto a ondate, terza ondata, quarta ondata, quinta ondata, quindi un vaccino ci vuole per forza. A meno che poi non abbia effetti tossici a lungo andare, che ne so, qualcosa che poi ti fa sviluppare patologie dopo tanti anni. Sai anche che di certi farmaci se ne sono accorti dopo decenni dei danni che facevano. Dopo decenni, quindi non tu te lo fai perché magari è necessario per evitare diffusione del virus, però poi anni dopo, vabbè. Comunque non ti fare paranoie troppo, se pensi a queste cose non dormi. Una passaggia, non ne può fruire di cose. No, non mi interessa. Se proprio non è necessario non lo faccio. Una roba da macchica. Chissà che fucarivi, più buone, cazzo. O ti fa ammalare prima. Ma sai cos'è Anto? Vabbè, nei paesi democratici, cioè in molti paesi dicono vaccino di prepotenza obbligatorio, non so se in Russia abbia detto così Putin, e non ti puoi sottrarre, però quello dico, quello nego. Nei paesi come il nostro, che presunti democratici, non ti obbligano, però cominciano, però se non lo fai, al lavoro non ti accettano, magari se c'hai, che ne so, tipo redditi cittadinanza, lo Stato comincia a toglierteli, capito? Con il ricatto ti obbligano a farti il vaccino, con piccoli, non piccoli, ricatti anche grossi, non ti obbligano, ma alla fine sei obbligato lo stesso. Per carità, gente guarda. Adesso ti faccio un esempio, non posso dire di chi, non è una persona del baracchino, però fa un lavoro importante, no? E il tampone non è obbligatorio, però alla fine gli hanno detto chiaramente che se non lo faceva aveva delle ripercussioni poi sul lavoro, capito? Sulla vita lavorativa, e quindi è come se l'avessero obbligato a farlo. Capisci anche la differenza tra... Vabbè. No, secondo me sono tutti canti mancati, insomma. Spero che non faccia male questa cosa, sennò è un bel casino. Non si capisce che cosa... E magari dice che i vaccini però non sono arrivati qua, di quel tipo. Ma spero che non siano fatti in fretta e furia. Poi che ne so, i russi hanno il loro vaccino, i cinesi ci avranno il loro, noi da noi dovrebbe arrivare con lo Pfizer, negli Stati Uniti forse avranno un altro vaccino fatto da un'altra casa farmaceutica. E comunque tutta roba, ti ho detto, sì, anche se non è obbligatorio, poi ti un piccolo piccoli ricatti ti obbligano a fartelo. Siamo lì, è come la storia dei bambini a scuola, il tampone non è obbligatorio, perché non è obbligatorio, è su base volontaria, però se non vaccini il figlio non te lo mettono a scuola, capito? E quindi lì alla fine un genitore o fai causa, cosa vuoi fare? Non ti rivolgi a un avvocato oppure ti fai fare il tampone e è finito lì. Poi con l'ultimo questo cavolo di Veneto a Burarrao e così è. Ma dice che dovrebbe fare il vento scirocco, vero? Vento scirocco, quindi da sud o dintorni, boh, io so che nel pomeriggio sono andato a comprare una cosa qua vicino e avevo un caldo, soprattutto facendo la salita, un caldo mi è venuto, porca miseria. C'erano 15 gradi buoni all'ombra ovviamente, e lì c'era pure il sole, fatelo conto. Ah, va, mi sono coricato diversamente, mi sento un pochettino di aria arrivare. Un po' di vento, qua ancora non mi accorgo di niente. Ebbene, sei andato, fatti un giretto, Platamona, no? Dintorni. No, chi ne aveva tempo, forse domani, se... anche se lo vediamo un po' da com'è. Pace e bene a tutti. Marta, che ce ne faria. Pace bene. Ciao Gianfra, stavo così passando il tempo. Ti volevo chiedere, beh, sei riuscito poi a vedere, io non so a che punto siano arrivati, sei riuscito a vedere la fine del Trono di Spade? Sì, sì, sì, molto bello, molto bello. Ciao Antonio, ciao Marco, e ciao gli altri in ascolto. Sì, l'ho visto alla fine. Bello, drammatico e... è finalmente un qualcosa che finisce in maniera non scontata. Sì, però come ti avevo accennato io senza fare spoiler, chi si è adoperato molto, tipo Joss Do, cioè con le pive nel sacco prima, con le pive nel sacco dopo, però la situazione era quella che era, delicata. Se non si rischiava l'ennesima guerra, allora se ne è dovuto andare in mezzo ai ghiacci lì con quegli altri pellegrini. Ma è così anche nella realtà, è la fine degli eroi, c'è poco da fare, o muoiono o vengono dimenticati. Ecco un attimino. Eia, ma Bianco, perché qualcuno sta chiamando sul fondo, o Bianco per te, o Bianco per lui allora. Vabbè che Gianfra, in queste mitologie tutte prese dal nord, tutto di origine nordico, anzi gli eroi dovrebbero entrare nel Valhalla, cioè dovrebbero avere il massimo degli onori. Certo che del Targaryen non aveva niente lui, anzi, occhi neri, capelli neri, lì erano tutti i mezzi platinati. Sì, non so se si sia allontanato Antonio, che cosa... sì, vabbè, è una cosa così, se per quello si è notato non c'era neanche religione, non c'era, c'erano queste forme così, cioè è un racconto di fantasia comunque. E diciamo già c'erano le religioni, ma erano più alla buona, a parte quei pazzi e furiosi, l'altopassero lì, che erano come i parabolani nel... con il cristianesimo ha cominciato, i cristiani hanno cominciato a fare i prepotenti, capito? Dei fanatici, capito? Mamma mia, pucci. Purtroppo la storia insegna, però sono pochi quelli che la vogliono conoscere. Il problema è sempre lo stesso. Ti volevo chiedere, allora Storici Vittorino, come sta andando? Bene. Sì, sì, guarda, ieri stavo ascoltando al pomeriggio, 40 metri, 20 metri, c'era un'attivazione yacht, ho sentito una ragazza parlare, una voce femminile, e dal nominativo era dalla Germania, del gruppo yacht, la sigla non mi ricordo, comunque sono giovani e volenterosi radioamatori che imparano e tutto. giù di lì, dai. A proposito di quella storia dei dati, volevo prendere una piccola scheda audio USB per il portatile con Windows 10, perché ha un unico ingresso cuffie e microfono lì, no? A 4 poli, jack 3.5 4 poli, e piuttosto che sbagliare qualcosa e bruciare tutto, per quanto sia semplice poi, lo schema lo so già, la pedinatura, capirai, 4 poli. Volevo prendere, per comodità mia, una schedina USB esterna audio, no? Che praticamente c'è l'ingresso, l'audio in e l'audio out. 9 euro miseri su Amazon. E usare quella anziché fare a crocchi saldati male da me, capito? Poi c'era qualcuno che voleva entrare, avanti. No, negativo. No, guarda, non lo prendere da Amazon, sono cose troppo piccole dal punto di vista del prezzo. Se vai dai cinesi, io ne ho preso 3 addirittura, proprio per fare quei lavori in ambito digitale, costa 3,50 euro, credo. Ce ne hanno in quasi tutti i negozi cinesi. Scheda audio USB, sono piccolissime, sono quelle che hanno 2 ingressi. Microfonico è uscitario ed è quanto una normale pennina USB. La metti e funziona subito, niente seccature, niente di niente. Tanto a te serve solo con la microfonica tra l'altro, quindi. E funziona subito, 3,50 euro. E non stai lì a perdere tempo. Non sarà per caso quella verdolina semitrasparente, no? Che vedi i circuitini interni? Sì, anche. Sì, adesso io, guarda, ce l'ho da qualche parte, ecco, ce l'ho davanti. Lì no, anzi lì in Q, 3D Sound. Sì, è mezzo trasparente, questo è blu, poi c'è anche verde, dipende dal tipo. Vanno benissimo, non creano nessuna seccatura. Sì, l'ho vista, probabilmente la stessa. La vende tutta internet, cioè un sacco di venditori, mi pare, di eBay, di Amazon, AliExpress, tutti quel modello lì vendono. Addirittura da AliExpress l'ho vista a un prezzo tipo 1,80 euro, una settimana, cioè una cosa mai vista. Solo che devo aspettare un mese. Magari c'è la cinese, tipo quello a fianco Exocean, come si chiama? C'è quel nome che non ricordo mai. Muraia, oppure ce la dovrebbe avere anche Matteo. Ce l'hanno un po' tutti, gira un po' quei 2-3 negozi e la trovi. Non ci sono problemi, capito? Pochissimo, quindi non è il caso di fare ordine, che poi costa più la spedizione che quello che compri. Cosa? Io avevo attivato Amazon in prova, però Gianfra, per non pagare spedizione, cosa? Amazon Prime, mi pare, mi scade a gennaio. No, ma sai perché? Se quando a pigliare la macchina, tra cercare parcheggio, rientrando, ci spendo 10 euro in benzina, gira, intanto vado lì alla data, da eBay. Esagerato, va. Quando riesci a fare la spesa, ti avvicino, la signora te la prendi. Quanto sei complicato, mamma. È rientrato Antonio, avanti. Capo, di che cosa state parlando? Di quelle schedine che vendono i cinesi per il computer, schedine audio, che a lui le servono per la gestione di un ricevitore nelle modalità digitali. A posto di spendere soldi e aspettare che arrivi, fa dei cinesi che sono le stesse, se la compra, 3,50 e fa prima, ma ho capito che Marco è un po' mandrone a muoversi con la macchina, anche senza, probabilmente, per Marco. Sì, ma più che altro proprio perché qua è poi questo periodo, non, dopo una certa ora non si muove una macchina, manca proprio, se tu documenti, non so questa qui, anche quella è su, quella è giù, non si muove una macchina e devi aspettare. Parlo il parcheggio regolare naturalmente, per mettermi sulle strisce, su stalli invalidi o cosa non ne metto. lasciare anche qualche giorno, se non è. Sì, allora ho aperto l'interfaccia di quello che mi hai detto tu, MultiPSK, no? Che io non l'avevo mai visto in Italia, ho visto tutta questa mare di sigle e siglette e non ne ho capito niente. Non ho capito nemmeno come selezionare la fonte, da dove acquisire l'audio. Vedevo quasi una... non te lo so dire, ma lo devo studiare, mi devo prendere qualche guida e seguire passo passo come fare le prime impostazioni. Ma guarda, guida esagerato, è una cosa talmente facile, dato che tu non devi trasmettere, devi solo ricevere. Lo metti in configurazione, se tu guardi quando ti apre tutto quello che hai detto di quell'ambaradana, anche se dovrebbe in realtà aprirsi all'inizio, a destra un altro c'è configurazione. Metti configurazione, le dici che scheda radio c'hai, in quel caso usce, in quel caso esce il nome che abbandoni l'aumento, PNP, una cosa del genere, quel tipo di scheda radio. Se la imposti come input, boh, finito, devi fare una cosa di 3 secondi appena, dopodiché inizia a ricevere. Devi solo sintonizzarti, girare, sentire segnali strani, farti l'orecchio un po' a capire cosa è. Puoi iniziare con segnali contatti, tipo quello delle tele 620, quello, anche quello del bucket, il bucket di lì è in VHF. E comunque, oppure i bollettini dei maestri o navali, quelli arrivano bene. E ti diverti, vedi anche fin dove arriva il ricevitore, futuri. È abbastanza semplice, sono cose proprio più che elementari. Avanti Antonio. Capa. Già va bene. Ma ci può usare questa cosa qua, ci può usare come ricevitore, ci può usare. O va collegata a un ricevitore. No, è un sistema elementare, però molto funzionante, per poter ascoltare, oltre a tramite un ricevitore, tramite l'uscita audio di un ricevitore HF, tu lo metti e puoi ascoltare vari sistemi digitali usati in campo amatoriale, ma anche civile, i bollettini del mare, e così via, aerei, e chi più ne ha più ne metta, insomma tutto il digitale che c'è in HF, e capire un po' quali sono tutti quei rumoracci che si sentono, però non si capiscono, qualcuno addirittura li confonde per portanti, ma portanti non, anzi sono cose importantissime. E quindi è così, è un altro modo di fare ascolto, di scoprire tutte quelle cose che ci sono in radio, ma che poi alla fine dei conti pochi conoscono. Ecco, la radio non è solo la voce, hai tu capito? Ci sono tante cose, sono. Certo che è interessante mettere una cosa del genere. E poi grazie. Sì, grazie, sì. Per caso c'era la possibilità di fare di pagare un minimo e avere cose in più, forse per chi trasmette vale quello. Sembra di aver visto una vocina per abilitare qualcosa di extra. Sì, ti devi comprare la licenza che costa 30 euro, ma solo per i modi professionali, quelli che vedi alla destra, no? Dove c'è scritto professional. Che comunque molti sono in VHF per decifrare satelliti, eccetera, quindi nel tuo caso ti basta e ti avanza quella, diciamo, classica, ecco, quella di uso comune che penso che sia abbastanza grande anche, se ne ha voglia. Sì, appunto, devo farmi un po' da... non ho familiarità con quella roba lì, la prima volta che lo apro, e così non sapevo anche un po', mi viene il panico a me, c'è roba nuova, roba di computer, stavo guardando più le voci singole anziché aprire la configurazione, stavo guardando le vocine che comparivano tra queste voci, vabbè. A quanto ho capito puoi anche decodificare registrazioni come dei clip. c'era una sorta di mini lettorino, facevi play, mettevi play se avevi un file già pronto da ascoltare, spiegato alla Carlona così, dai. Sì, però vabbè, quella è un'altra cosa, non ha grande importanza. Quella della registrazione non è... A te ti interessa la decodificazione, che è ben diverso. Capito dal vivo, presente, quindi quello va dal CV, dal semplice CV che nessuno, cioè che nessuno, che per lo meno i non addetti ai lavori non capiscono, quindi devi con tanta comodità, te lo metti in ascolto, anche tu riesci a capire che magari stai ricevendo una missione che è solo dagli Stati Uniti. Lo fa anche abbastanza bene, dipende dalla mano poi di chi c'è dietro, dall'operatore quanto è bravo ad essere costante, però devo dire rispetto a quelli di una volta quel programma ha fatto miracoli, quindi riesce a decodificare parecchie cose. Poi tutte le telescriventi, ripeto, c'è di fare solo l'orecchio, è semplice, non è. Se poi puoi andare anche oltre, puoi anche trasmettere, lo colleghi al baracchino, ingresso, uscita, lì ci vuole un pochettino più di pazienza, però a posto di mandarla a un altoparlante, il segnale lo mandi in rete microfonica e c'hai la possibilità di andare in RTT, in TSK, in Trick Track, se chi più ne ha finestra, in packet, e fare SMS. Chi ha voglia ce n'è da fare, capito? Le prendi a tu. Una bella cosa. Ascoltate, io mi sto addormentando. Dai, buonanotte a tutti, perché oggi sono dalle 6:10 in piedi. Allora sono con Grimbardo gioco. Dai, buonanotte a tutti, Continuate cose, io non ce la faccio più. Mi ha fatto piacere. Ok, buonanotte. Sì, ciao, buonanotte. Ti prendi Marco. Ehi, ciao Anto, buonanotte, buon tutto, e sentiamo. Caspita, se di mattina sveglio, praticamente svegliandoti tu e andando a dormire io. Tutti ora scombinati, porca miseria. Una vera vita da vampiro proprio, che palle. Ehi, va bene, poi... Tutto vedo, dovrei avere un cavetto audio doppio jack, 3.5 stereo, credo. Da qualche parte, se no mi tocca comprare anche quello dei cinesi. Vabbè, poi mi lo userò un giorno o due, appena mi burio, poi non ne so più. Dicevo, comunque ho provato anche il cavettino che ti danno di serie, che è veramente corto, cioè miseri 3 metri. L'ho attaccato a una canna da pesca di quelle per acqua dolce senza anelli, no? Con un pezzettino di nastro l'ho messa fuori dalla finestra, dal lato interno, per non dare scandalo, no? Messa fuori e riceveva lo stesso, però con la 5 ottavi per la 27 prende meglio, persino con un'antenna così, vabbè, che non è risonante nemmeno questa qua. E invece riceve ancora meglio, per non dire eccellentemente, con l'antenna veicolare che però è risonante, quelle con lo spinotto prese e calcolate, no? E mi ero messo, sai dove? Il punto più alto, dopo il centro ecologico, c'è una specie di campetto di non so cosa coperto da una rete, no, per non perderci i palloni. Dovrebbe esserci una casa cantoniera proprio lì attaccata dove mi fermo io. E ti dirò che nonostante passasse sulla verticale o quasi sulla verticale un cavo dell'alta tensione, almeno credo fosse tale, tubi particolari, la ricezione era ottima, era proprio più pulito rispetto alla 5 ottavi, capito? Poi qua siamo stipati in mezzo ai palazzi, quindi qua c'è molta più rumorosità, anche 27. E lì con l'antenna buona, tarata e grossolanamente tarata, comunque risonante, molto molto meglio, molto meglio. Sì, c'era qualcuno che voleva entrare, forse. Riprendi tu Marco, fallo entrare, io mi allontano per un paio di minuti. E Maria Gianfra, però vabbè, aspetto due minuti, da, perché io prevedevo di accendere la TV. Avanti, che vuole entrare sul 10. Buongiorno cavaliere, ma sono io, c'è uno che va sottomodulato, ma una battuta poi è fuggito. Ciao Antonè, se vogliono entrare già c'è posto, insomma. E beh, come va Antonè? Bene, non me va bene, grazie a Dio, per il momento ancora. Non è così, dai. Adesso è tardi, sono andati via tutti. Forse più tardi qualcuno rientra, ma io poi intanto adesso mi attacco la TV e mi sento lì. Ah, sì. Dopo ti mando un massaggio, mica, se va a far culo a me, sto dicendo cazzate. Un messaggio dopo ti mando su WhatsApp. Lega foto erotica. E mi dicono che fatene pure di quelle. Ma la carità, cazzo. Tutti di mia cioccata, cazzo. Ne ha pochi, cazzo, di ragazze, cazzo, tutte amiche sue. Tutte porno, cazzo. Poi lo vado a far culo per quello. Ma io vado a la vostra, cazzo, avere amicizie. Tutti di quel genere, cazzo, di amiche sue, ma va a far culo da un certo punto. Che amicizia non è male. Cazzo, ma tutte cazzo di Houston, cazzo, sono tutte americane, tutte porno, cazzo. Tutta roba che io vado a farmacia. A un certo punto mi sono scocciato. Ho detto, ascolta, fa una cosa. Ti cancello e te la prendi in culo, tu e le amiche tue, gli ho detto. Ma io non sono maniaco, come no, gli ho detto. E scusa, c'è tutto e tu, mica ce l'ho io queste cose qua, gli ho detto. Con la quindicina, cazzo. Ah, ve la vuota, gli ho detto. A parte il telefono, ho detto, non lo piglio solamente io. Lo piglio, detto, lo prendo i miei nipoti, giù a casa di mia sorella. Per la figura in bada ci faccio, gli ho detto. No, ma infatti, siccome ogni tanto... Che ne so, mia zia mi chiede di vedere il cellulare quando deve trovarsi le impostazioni per il suo, che è il gemello, no? Fatto, prendi, fai, tocca, vedi tu. Non ne voglio roba porno sul cellulare, se no poi lo perdi, che ne so, lo trova, è tutto una segheria, capito, non va bene. Tutte amiche sue, tutte amiche sue, ma c'è solo almeno una quindicina alla volta, cazzo. Tutte degli Stati Uniti d'America, di Houston, cose del genere, spagnole, brasiliane, cazzo, non è una volta giunto, cazzo, c'è il telefonino, ho detto, ciao, mi riputi, ogni tanto, cazzo, se vedo una cosa del genere, cazzo, mi piace avere mania un po' pure, lo so, ma va a far culo, ecco, fa la cosa, ho detto, non mi chiamare più, non mi chiede più un cazzo, ho detto basta, ti cancello e te ne vai a far culo. Ma io non è così come pensi tu, come non è così? Sono amica tua, io ormai non ho mai ricevuto una cosa del genere, tu mi cambia, ho detto. Cazzo, quindi c'è la volta, cazzo, ogni mese, ma tu sei scherzato, gli ho detto. Ma quando ti sei separato, ho detto, ma cosa fai? Se caglio, ho detto, mattina e sera, ho detto, a un certo punto. Ma vai a far culo, tu e sei di porno, ho detto, vai a far culo, ho detto. Ti cancello e avvaggiati. Ma chi era così che ti tormentava con roba porno sempre? Coso per caso? Robertino? Belli Gabelli? Non mi ricordo male io, l'hai dovuto bloccare. Sì, prima Roberto per i capelli, ma adesso questo è peggio, cazzo. Cazzo. Ogni giorno viene una, ce l'hai, cazzo. Ma ogni giorno, cazzo. Tutti degli Stati Uniti. C'è la fila, c'è qua. Quindi c'è la volta. Ogni settimana. Sì, mi ricordo, anche un amico... Aveva un amico che lo proprio era operato di messaggi, di foto porno e video porno, tutti presi da YouTube gratis poi. Alla fine gli ha detto, senti, a me non mi interessa di poi ti devi cancellare tutto, tutta questa mondezza che ti arriva. Ma dico, se li vuoi guardare ti guardi al solo, non è che li mandi a raffica gli altri. Sì, ma tutte amicizie sue, non mie, no. Tutte amicizie sue, il discorso è quello lì. E vedi, quelle amicizie sue, non me ne frega proprio niente. Il discorso è quello. Ma sono tutte amiche sue, cioè, a un certo punto, suggerimento d'amicizia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, alla volta, me la fai. E poi me, quando ne ho parlato, ho detto, guarda che detto, mi sono stufato di questa storia qua, ho tutto a casa e ho detto, oh, adesso sta scherzando, mi ha detto, non mi offendere, mi ha detto, cazzo, se sono tutte amiche tue, mica sono amiche mie, ma sta scherzando, mi ha detto. Tu sei tutto scemo, gli ho detto. Da quando sei divorziato, gli ho detto, tu stai scendendo di testa, gli ho detto, fa la cosa, gli ho detto, niente ne conto tu, e tu me lo vuoi mandare, gli ho detto. Comunque io ti cancello e te la prendi in culo, quelle amiche tu, gli ho detto, a un certo punto. E io ci ho detto, mi riporti, gli ho detto, che quando ho il telefonino, si mettono a giocare sempre con una cosa vecchia, gli ho detto, ma stai scherzando, ho detto, passo nel casino io, passo. E poi amiche, hai detto dall'altra parte del mondo, quelle tutte amicizie fittizie, mie, virtuali, capirai quanto valgo. Magari sono quelle che poi ti chiedono, dopo un po' che chatti ti chiedono il numero di carta di credito, ma fa tutte fottiture. Cioè. Sì, ma vogliono tutte la, come si chiama, per avere il filmato vogliono la carta di credito, è logico per avere il filmato, ma io so di aspettare così, non ne ho. Scusa, però a un certo punto... vado e piglio il CD, come se facciamo una volta, ti pigli film porno, te li guardi, ti fai quello che devi fare a mano, o la patrice, quello che è, e va a far culo, non è che ti rivolgi, cazzo, dei telefonini, cazzo. Vabbè che lui c'è una bella pensione, ma che stia tutti i giorni così, ogni giorno, cazzo, caricarne 15 alla volta, non è possibile allora, non è normale. Vediamo se è entrato Gianfranco, così ci salutiamo, dai, e cambio postazione. Sì, sì, ciao Tamello, buonasera, mi hai ascoltato? Sì, Marco, anch'io infatti adesso chiudo, non mi raccolto neanche che fosse già da dopo. Ci guardiamo il solito telefilm, già è sabato, quindi c'è il VAT. E poi cosa c'era dopo? C'era quello, e non lo ricordo più. Oh, vabbè, ci guardiamo quello, siamo a posto, se no me ne passo su uno dei soliti canali, Amazon Prime, l'altro Netflix, e vedo un po' cos'è. Ho finito a proposito quello là, quello di 100, mamma mia. Se fosse stato, guarda, un alieno che avrei buttato una bomba e li avrei estinti. Che gente, veramente. Dopo un po' vanno, mettono guerra e fiamma e fuoco. Ho finito anche quella serie. E niente, adesso chissà se la rifaranno pure. Ma... tu che stagione hai visto? Perché io un po' l'ho un po' mollata, perché sì, è un continuo, cioè dove vanno casini lì, casini là, vedrai che riusciranno a distruggere sia l'uno che l'altro pianeta rimanente adesso. Che stagione hai visto? Cioè dove sono arrivati con la produzione? Dunque sono arrivato, che sono atterrati sul nuovo pianeta, dove c'erano quelle dighe, si finivano degli dei, eccetera, ammazzavano le persone per prenderne il corpo, il parole povere. E poi, tra una cosa e l'altra, giusto per non perdere l'abitudine, sono riuscito anche a distruggere quel pianeta. Quindi a un certo punto meglio sacrificare pochi che molti di un intero pianeta. Oi, guarda cose allucinanti. Comunque è finita, adesso vediamo a che altro pianeta si danno. Gente con il vogo proprio, per carità. Riprendi Antonio. Non so neanche cosa sto seguendo la verità, perché io Netflix non ce l'ho, quindi non so cosa dirti, non sono aggiornato nell'argomento, quindi vabbè, meglio così. C'è una bella sagra come quella che c'era una volta di UFO tanti anni fa, quella è bella. non muore mai, proprio qui c'è spazio per 299, eccetera, eccetera, e un sacco di coordinate varie. Comandante Stricker, Shadow Mobile, che cosa bella. Spazio 1999 per quando ero bambino era spettacolare. Ero convinto che si potesse, noi nel 99 saremmo già stati con basi lunari, con aquile, invece niente. Ti sembra comunque. Comunque sì, la base lunare c'è già, lo sai, lo sapevi che la base lunare su c'è. E noi non lo sappiamo, ma c'è purtroppo. Il fatto che hanno paura i cinesi a salire sopra, tanto meno anche gli altri adesso, perché ci sono appena 250.000 persone che abitano di lì, non è niente, no? Non è in pratica da una parte illuminata dal sole, ma dall'altra parte, a quanto sembra. Ma tu ci sei stato, l'hai vista, eri presente, sì, per dire che c'è. No, io ho guardato solamente la TV sulla Rai l'altra notte e sono andato fino all'una e un quarto a guardarmi con la... hai capito? Perché un sacco di militari americani sono stati zittiti, hai capito? Per questa storia qua, in pratica c'è un insediamento su, sulla Luna e ci sono anche loro, già la mamma era molto prima addirittura, non solo l'altra. Addirittura avevo detto che Mary Monroe l'aveva ammazzata perché sapeva un sacco di cose su questa storia qua, degli alieni, e in più quello segreto che, cioè in pratica, l'amministrazione americana del presidente per dire che c'è lì a quei periodo lì, deve stare che zitto, perché sono ammazzato anche a lui, il discorso è quello. Tutto lì. Ci sono due cose parallele, ci sono in America, capito? Comunque non è che gli UFO siano nati così di cosa, sono materiale che gli americani, sono due cose diverse, i militari sono una parte e il resto dall'altra, quindi sono più di tutto di più, c'è tutto un casino in pratica, hai capito? Oh, mamma mia, sentite tutto da un fiatto. Gianfra, riprendi. Ah, adesso chiudiamo. Sì, sì, sì. Ma guarda, io seguo molto queste trasmissioni, però il fatto è che non seguo queste cose buffe, complottistiche, eccetera, ma quelle scientifiche. Sarebbe molto bello poter fare così su due piedi una colonizzazione senza che ti veda nessuno, tra l'altro. Il problema è che proprio la Luna si vede a 360 gradi anche da Terra. Se tu ti compri un buon telescopio vedi certi dettagli che se ci fosse qualche insediamento guai, quindi sì, tu dici se ne sono andati sotto terra, sotto la Luna, però ci sono dei problemi di logistica, che è la cosa sempre più importante durante una qualsiasi guerra o una qualsiasi invasione o nel fare qualsiasi forma di accampamento, diciamo così, che sono micidiali. Poi farlo sulla Luna è moltiplicato come difficoltà per mille. Basta pensare all'acqua, a tutti quei prodotti per nutrirsi che solo adesso ultimamente stanno sperimentando, tipo i nuovi cibi, c'era ieri credo, non so ieri o ci fosse una trasmissione proprio su quello, e quindi non sono così semplici. Sotto tanti tanti punti di vista, dalle comunicazioni a chi più ne metta, poi quelli sono così in pasto al pubblico comune. Va bene, comunque è tardi ragazzi, tra poco fa iniziare anche il telefilm. Ciao Antone, ciao Marco, buonanotte a tutti. Buonanotte, ci stiamo alle prossime, stavi bene, comunque ti buon tutto, ciao, domani. Ciao. ciao Gianfranco, buona serata, buon tutto. Noi ci sentiamo le prossime, ok? Antonè, ti dico lo stesso, dai. Io chiudo, perché non riesco a stare un po' come facevo fino a poco tempo fa. Ti ricordo una volta, alle 2:30 cosa avevamo fatto di notte. Mamma mia. No, non ci riesco più. Ok. Ciao Antonè, buona serata, buon tutto, dai, sentiamo. Manda quello che devi mandare. E poi sentiamo, ciao. Ehi, quello è con Giovanna, che sei rimasto fino alle 2:00. No, con Giovanna no. Avevamo detto che volevamo fare tipo le 3, ma era una cosa che, o con te, però poi non abbiamo fatto. No, non è proponibile, dai. Vai, si vecchio adesso. Ciao Gianni, fino a una di qualche cosa, 2:30 mi sembra che avevamo fatto, poi te lo direi, poi c'è, ne facciamo fino alle 2:00, avevi detto a Giovanna una volta, dopodiché non è stato fatto la verità, come è vero. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Grande è su Gianni, chi è questo Gianni? Mica è Luca Flipper. Cazzo Luca è? Che sembra Gianni che ha quel microfono, va a fare ancora lui, Gianni... Porca miseria, mi ha fottito che... Ciao Lu, ehi, ti ha scambiato per Gianni per i toni alti, tipo la statica che usa Gianni. Ehi, c'è cascato, Antonè, stai prendendo colpi e non c'hai più l'orecchio pronto. Esatto, non mi da solo tutti i giorni la baracchina, già lo sai. Sono un bel che non entro, che l'hai vista anche tu. Entro una volta ogni tanto. Quindi non è capito. Vabbè, ho gli apparecchi uno sopra l'altro, messi, senza l'autoparlante sopra, capito? Che sono se ne parlano gli osso, se ne parlano. Quindi a un certo punto, non è che ascolti l'audio come si deve, ascolto la metà. E cerco di capire, capito? È come avere l'orecchio, cazzo, metto tappato e non riesce a capire chi sia. Ehi Antonè, va bene, caspita, 9:13. Ok, sentiamo, dai, ciao Luca, se era lui, magari non l'ho riconosciuto io, non ho avuto la conferma. Sono io, dai, di passaggio. Va bene, dai, sto chiedendo anch'io, Marco. Ciao Antonè, no, questo è SM20, sempre con 706K. Mamma mia, che radio che c'è strana, la verità, Luca Flipper. Ero abituato all'altra radio, sei troppo alto, toni alti, sei. Sempre di caso vengo un telefono, cazzo, addirittura. Non ti ho riconosciuto, la verità, non ti ho riconosciuto. Guarda così che ha abbassato un po'. Adesso un pochettino meglio, ma... Però è molto meglio i toni bassi che i toni alti, sono abituato a sentirti così, la verità. Ma non c'ho toni bassi, ho capito Antonio, purtroppo. Sia con 60 che con SM20 mi fa così. Ho capito, vabbè, non fa niente, dai, non ti mettere problemi, ci mancherebbe. Comunque la modulazione è quella, se ti ascolti, ma è fregato, guarda, appena sei entrato, la verità. Perché Gianni c'ha con quel microfono che ha lui, c'ha i toni alti come ce l'hai tu, tale uguale. Sembra di lui, la verità. Dopodiché, se non avessi detto Marco, la verità era, a un certo punto ci avrei passato magari dopo. Beh, vabbè, capita, Antonio. Beh, ti saluto Antonio, dai, ero qua in camera di passaggio. Stavo saldando una cosettina e ho acceso la radio. Va bene, ciao, ci sentiamo alle prossime. Stavi bene. E ya, ciao a tutti, ciao, QRT esecutivo, ciao. Ciao Paco, che te buon QRT, alle prossime, a domani.